L'altra Europa. Buona sabato da Federico Taddia, eccoci qua all'Altra Europa, un programma in collaborazione con Euronet Plus, Network, Paneuropeo, tante voci, tante radio, tanti punti di vista per raccontare la nostra Unione Europea, le coordinate virtuali, i miei account personali su Twitter e su Facebook, quindi Federico Taddia, oppure euronetplus.eu, euronetplus R24 su Twitter e ancora la pagina Facebook di Euronet Plus Radio 24. Quella di oggi è la prima di quattro puntate estive, quattro puntate che vogliamo dedicare al muoversi in Europa. Un po' la sottotraccia sarà: Europa, dati una mossa. Cosa vuol dire muoversi in Europa per lavoro, per studio, per volontariato o semplicemente per turismo? Il turismo che sarà il cuore della puntata di oggi. Cosa significa per l'Europa oggi il turismo? Quali sono varie modalità di turismo? E soprattutto, cosa vuol dire fare turismo nel senso di contaminazione culturale tra i popoli, tra le persone e tra le nazioni? E partiamo proprio da qua. Ogni settimana un viaggio, il viaggio di oggi ci porta verso il cuore d'Europa ed è un viaggio che facciamo a piedi. And it's changing my decisions, and I'm still making up my mind, and this habit's an obsession, and this obsession is a crime. Freccia d'Europa 2013, da Mantova a Strasburgo, un cammino per la rinascita dell'Europa. Un gruppo di camminatori ha scelto di partire da Mantova, capiremo il perché, e raggiungere Strasburgo, raggiungere uno dei luoghi simbolici dell'Europa. Tutto questo a piedi, tutto questo camminando, tutto questo portando passo dopo passo, sudore dopo sudore, dei messaggi importanti, dei messaggi proprio per la costruzione, o meglio per la ricostruzione dell'Europa, messaggi che sono arrivati fino alle mani di Martin Schulz, presidente del Parlamento Europeo. Con noi c'è Giovanni Giovannetti, giornalista, uno degli organizzatori, oltre che dei camminatori, dell'associazione Cammina Cammina di Freccia d'Europa. Ciao Giovanni, benvenuto all'Altra Europa. Un saluto a voi. Altra Europa che credo voi abbiate visto e toccato da vicino in questa lunga, lunghissima camminata. Quanto è durata intanto? È durata 38 giorni, da Mantova a Strasburgo sono circa 850 chilometri se li fai in autostrada o per strade asfaltate, diventano 1200 quando te la fai a piedi. Uh-huh. Dicevi per l'appunto Europa datti una mossa, e questo è ciò che più o meno intendevamo fare noi, appunto, che l'Europa si desse una mossa, già che a noi questo nuovo totalitarismo di tipo economico e finanziario piace poco, ma ci piace una dimensione, se vogliamo, più legata al senso di cittadinanza. Mm-hmm. 12 persone, un po' il nucleo centrale di questa camminata, però in tantissimi vi hanno poi seguito, perché si poteva fare micro tappe oltre che l'intero percorso. Giovanni, che Europa avete visto, che Europa avete respirato dalla strada? Ma dalla strada si respira l'Europa delle comunità, tante, e da cui abbiamo ottenuto anche non solo solidarietà ma anche ospitalità. I nostri sponsor sono stati per l'appunto i comuni, piccoli e grandi, che di volta in volta lungo il cammino ci hanno dato ospitalità e accoglienza e anche scambio, sia in Italia che negli altri paesi europei da cui siamo transitati, Svizzera, Francia e Germania. Mm-hmm. Tutto questo per portare anche una lettera che non è tanto una lettera provocatoria, credo che provocatoria non sia la parola giusta, una lettera ricca di stimoli per dire: questa è l'Europa che ci piacerebbe avere, un'Europa basata su delle parole chiave che sono un po' le fondamenta dell'Europa che voi sognate, che voi auspicate. E questa lettera l'avete portata a Martin Schulz. Com'è stato l'incontro, quali sono state le reazioni e quali sono state le parole più apprezzate anche dal Presidente? Sì, della lettera parleremo. Corre dire che un messaggio del Presidente del Parlamento Europeo ci ha raggiunti quando eravamo a Mantova, il 1 giugno scorso, una lettera assolutamente non rituale, nella quale appunto il Presidente del Parlamento europeo rimarcava l'esigenza di, da parte della politica, di dotarsi di fantasie e visioni. E per noi è un complimento, cioè, ecco, un po' la politica dovrebbe fare come voi. In fondo, se questa lettera, che poi abbiamo consegnato il 2 di luglio nelle mani di Martin Schulz, gliel'avessimo spedita per posta o inoltrata via mail, beh, non avremmo ottenuto lo stesso effetto. Vuoi mettere, vederti arrivare un postino che ha fatto 1200 km a piedi per consegnarti un messaggio? La lettera la potete leggere sul sito camminacammina.wordpress.com. Ci vuoi veramente riassumere quelli che erano i punti caldi, i punti salienti? Certo. Uno l'abbiamo già citato, insomma, no? Ecco, noi questa Europa non piace, non ci piace questo totalitarismo di tipo economico e finanziario, non ci piace questo restringere tutto a un'unica dimensione che trasforma di fatto i cittadini europei in sudditi, pedine di un gioco che non sono in grado più di comprendere, e il decoder a quanto pare ce l'hanno solo certe persone. Ecco, in questa lettera si fanno espliciti riferimenti anche a un'esperienza italiana, che è quella di Cattaneo, Mazzini, Ernesto Rossi, Spinelli, il manifesto di Ventotene, così disatteso. Si parla dell'esigenza di compiere un gesto prefigurativo, proprio tale da combattere questo senso di rassegnazione. E ci raccontiamo in questa lettera, perché raccontiamo anche di noi stessi, ci raccontiamo come piccola repubblica nomade, una repubblica nomade che vuole così ridestare di nuovo significato parole, alcune parole un po' disattese. Una è sperimentale, cioè non bisogna aver mai paura di imboccare strade nuove. Oppure prefigurativa, ovvero non bisogna aver paura di sognare e trasformare i propri sogni in realtà. Nomade nel senso di capace di spezzare le barriere nazionali, del resto la globalizzazione degli umani lo impone, no? Certo. E repubblicana in senso altro, e cioè qualcosa che abbia la possibilità di combattere il logoramento e la ritualizzazione dell'esercizio democratico, che per noi non deve essere di sola facciata. Ecco, questo è il contenuto, vi ripeto, la potete ritrovare sul sito, il link su tutte le nostre pagine virtuali. E Giovanni, prima di salutarci, proprio in sintesi, perché Mantova come luogo di partenza? Mantova perché lì recentemente sono stati trovati due scheletri d'epoca preistorica, abbracciati tra loro. Direi che nulla più di questi due giovani amanti sepolti insieme 17.000 anni fa rappresenta, quasi una camera degli sposi, rappresenta quel radicale e positivo, potente e struggente idea d'Europa che abbiamo inteso trasmettere. Questa era l'Europa dei sentimenti e delle possibilità, non solo della politica e della cattiveria. Questa era Freccia d'Europa, quando fare turismo, quando muoversi, quando darsi una mossa vuol dire anche portare valori, portare principi e portare stimoli. Grazie davvero a Giovanni Giovanetti e un grazie a tutti i tuoi compagni di viaggio, di questa splendida camminata. Buona estate! Grazie dell'attenzione e buona estate anche a voi. Europost-it. Raccontare le città con un disegno. Scorci di Berlino, di Napoli, di Parigi e di tante altre capitali, ritratti con carta, colori e matite. È l'idea che è venuta ad alcuni artisti, che in breve sono diventati centinaia, che hanno iniziato a raccontare le capitali di tutto il mondo e di tutta l'Europa con il vecchio metodo del disegno e a diffondere le loro creazioni con il nuovo metodo dei social network. Ogni ritratto è realistico, ma allo stesso tempo unico e personale. Il sito che raggruppa questi lavori è urbansketchers.org, ma in alcune città dal particolare fervore artistico sono nati dei blog separati, come quello che racconta Berlino, germany.urbansketchers.org. Prendete il mouse e cliccateci sopra se volete ammirare qualche ritratto, oppure prendete la matita, disegnate la vostra città e partecipate anche voi. L'altra Europa. Donc on fait le A. C. sur la mesure à 3, on fait A sur le deuxième temps, sur le Do, et après Godiam, c'est dans le tempo. Donc ça fait Il, Mi, et avec la foule, ça sera plus facile, parce que ça, c'est lourd une foule à mener. Hein. Il, Mi, O, Destin, Così, Mi, A. Prove aperte da Marsiglia in questa puntata dedicata al turismo. Volevamo infatti focalizzarci anche sul valore di iniziative importantissime come quella di essere capitali della cultura. Marsiglia e Provenza sono capitali della cultura 2013 insieme a Košice, Slovacchia, e proprio per parlare del significato, del valore, dell'importanza e anche di quello che è accaduto e soprattutto di quello che accadrà, c'è con noi Marco Pasqualini, è qua in studio e si occupa proprio delle relazioni internazionali per Marsiglia 2013. Ciao Marco, ben ritrovato. Ciao Federico, buongiorno agli ascoltatori e grazie per avermi accolto con questo accento molto marsigliese di queste prove. Mi fa sentire un po' a casa. Ti sei sentito subito a casa. Tu tra l'altro sei italiano, però vivi là da un sacco di tempo, anche se sei Io giovanissimo. Sono milanese, vivo a Marsiglia da ormai 2 anni, sono arrivato per la capitale europea della cultura dopo varie peregrinazioni in giro per l'Europa e il Medio Oriente. E ti sei trovato al centro di questo grande frullatore, perché credo che sia un evento, che forse il frullatore è veramente una giusta metafora per dare l'idea di quello che succede in una città che viene stravolta grazie a un evento come quello di essere capitale della cultura. È stata stravolta in modo positivo. L'idea era quella di cambiare la città, di darle una nuova anima, di ritrovare un'anima che era stata un po' persa e rovinata dall'attualità, che vedeva Marsiglia come luogo di crimine, ciò che non è. E che ha permesso appunto di ricreare una città culturale partendo da, logico, da un passato culturale e rilanciando le culture urbane che sono tipiche della Marsiglia contemporanea. Quindi è il turismo che rilancia la cultura ed è la cultura che rilancia il turismo in questo fortissimo intreccio tra questi due elementi che è naturale che siano veramente fusi tra di loro. Tu hai visto appunto il cambiamento della città, lo hai raccontato? È facile raccontare Marsiglia oggi, quello che sta accadendo? È facile raccontare Marsiglia oggi parlando di quello che ho visto quando sono arrivato. Una città povera, un cantiere a cielo aperto, e la Marsiglia che vedo oggi, che invece è una città ricca di eventi e con dove si respira un'area molto diversa da quella di 2 anni fa. I marsigliesi si sono riappropriati dello spazio pubblico, sono tornati a vivere all'aperto e vivono la loro città e sono fieri della loro città. Uh-huh. E questo è un successo per noi. Certo, diventa motivo d'orgoglio, e questo motivo d'orgoglio poi con apertura europea, non solo locale, perché questo ovviamente la non la solo finalità. Con l'apertura europea, ma con l'apertura mediterranea. Noi siamo un progetto mediterraneo. Il titolo del nostro dossier di candidatura che abbiamo presentato all'Unione Europea era d'Europa e del Mediterraneo, proprio per mostrare questa identità europea e mediterranea di Marsiglia, luogo di immigrazione da diversi secoli, inizialmente con gli italiani, poi con gli spagnoli, portoghesi, oggi con le popolazioni del Nord Africa e di tutta Europa, perché siamo diventati una città che attrae gente da tutto il mondo. Mi dicevi che non esistono ancora dati ufficiali, ci sono insomma le analisi in corso anche di quelli che sono i numeri, no, dal punto di vista quantitativo. Dal punto di vista invece qualitativo, ma è anche delle sensazioni e delle percezioni, cosa è successo, cosa avete visto in questi primi 8 mesi? È successo che l'attenzione dei media stranieri e dei turisti internazionali è aumentata. Marsiglia è molto presente all'estero, nella stampa, televisione, e vediamo un aumento dei turisti che frequentano non solo gli hotel, ma che passeggiano per la città. Perché non bisogna dimenticare che Marsiglia è un luogo di arrivo delle navi da crociera, Una volta le navi si fermavano, i turisti scendevano e prendevano il TGV per andare a Parigi, a Disneyland o per visitare altri luoghi della Provenza. Oggi i turisti si fermano a Marsiglia e scoprono le novità di un lungomare che è stato completamente rifatto per il 2013 e che fa parte di un piano di rinnovamento urbano molto ambizioso. È il primo piano di rinnovamento urbano in Europa che sta ricostruendo Marsiglia da 20 anni. Poi ci racconterai quello che accadrà nei prossimi mesi. Intanto ci puoi dire cosa ci siamo persi? C'è stato qualche evento clamorosamente bello. Tra l'altro poche settimane fa abbiamo fatto una visita radiofonica virtuale al Museo del Mediterraneo, delle culture del Mediterraneo, che è stato inaugurato da poco. Però quali sono state un po', secondo te, quali sono le fotografie indimenticabili ad ora? Vi siete naturalmente persi il weekend di apertura, che era una grande festa di 2 giorni, il 12 e il 13 gennaio, su tutto il territorio di Marsiglia Provenza 2013, perché non è solo Marsiglia, è tutto un territorio di più di 90 comuni, da Aix-en-Provence ad Arles, passando per la Ciotà. Quindi questo era veramente un evento forte, e anche un tempo dedicato al circo a gennaio, che è stato uno degli eventi legati al circo più importanti nella storia del circo europeo, con decine e decine di spettacoli circensi. Mm-hmm. E ricordiamo il sito? Il sito mp2013.fr. Ok, intanto insomma preparatevi, che insomma avrete la possibilità di prendere appunti, perché poi vi daremo indicazioni di viaggio su quello che aspetta, su quella che è la programmazione futura di Marsiglia e Provenza, capitale della cultura 2013. Lassen uns braten, alles andere kann eine Weile warten. Und wenn nichts draus wird wegen 7 Grad, dann kippen wir zu Hause Säcke Sand ins Bad. Im Radio spielen sie den Sommerhit, wir singen in der Badewanne mit. Jetzt ist Sommer, egal ob man schwitzt oder friert. Tante volte abbiamo detto, senza scoprire nulla, che il turismo è veramente uno degli elementi, una delle cassaforti anche della nostra Unione Europea. È il nostro patrimonio, l'Europa è un patrimonio da vedere, da toccare, da vendere, da promuovere. E per capire dove sta andando il turismo in Europa, e soprattutto quelle che sono le priorità disegnate anche dalla Commissione Europea, abbiamo invitato nuovamente Francesca Tudini, della Direzione Generale Turismo della Commissione Europea. Buongiorno Francesca, ben ritrovata. Ciao, come va? Noi molto bene, grazie. È sempre bello parlare di turismo, è sempre meglio farlo, però insomma ci accontentiamo di parlarne per ora, ok? No, mica tanto, io sono in vacanza. Ah, tu sei in vacanza. Quindi sto facendo turismo, sto facendo. Sei testimonial appunto delle tue... Rigorosamente in Italia, tra l'altro. Quindi è perfetto, perfetto. Francesca, volevamo un po' così ragionare nuovamente con te su quelle che sono le priorità scelte dalla Commissione e sulle nuove idee, le nuove tendenze legate al turismo in Europa. Verso dove si sta andando? Guarda, verso dove si sta andando? Noi verso un sogno. Vorremmo che il turismo si realizzasse come una sorta di diritto per tutti. Chiaramente non parlo di diritto come un diritto dell'uomo, ma insomma, il turismo è un arricchimento. Nessuno, nonostante la crisi economica, dovrebbe essere nelle condizioni di rinunciare a un viaggio. Il viaggio ti arricchisce, ti fa conoscere persone, ti fa conoscere culture, ti dà qualcosa che probabilmente pochissime altre esperienze ti danno nella vita. Per cui dispiace sentire che tante persone ancora non possono permettersi queste situazioni qua, particolarmente penosa, non possono permettersi un vero viaggio, una vera vacanza, veramente qualcosa che dà dispiacere. Noi perciò abbiamo puntato, ne abbiamo forse parlato anche l'altra volta, abbiamo puntato sul turismo sociale negli ultimi anni, aiutare un po' quelle fasce poco meno avvantaggiate a viaggiare, magari con qualche aiuto, però poi sai, gli aiuti significa che gli stati mettono del budget così, e anche per le casse pubbliche anche quello è un problema. Insistiamo in quella direzione del turismo sociale, abbiamo allargato adesso a una fascia che forse è un po' più promettente, quella dei senior, perché abbiamo 510 milioni di persone in Europa, 510 milioni di cittadini europei ben 128 sono già nella fascia dei 55 anni in su, solo il 40% viaggia e 7 su 10 viaggiano solamente nel loro paese. C'è un potenziale enorme, gente che adesso magari rispetto ad altre fasce ha un po' più di, oppure rispetto al passato, ha un po' più di soldi per viaggiare, ha un po' pochettino più di tempo libero, sono viaggiatori eccellenti perché vogliono conoscere la cultura, la gastronomia, sono viaggiatori che rispettano l'ambiente, sono viaggiatori che hanno voglia di viaggiare. E sono viaggiatori anche fuori stagione, nel senso che magari hanno disponibilità di tempo per fare turismo, certo, non solo durante le vacanze, sì, standard. Possono viaggiare fuori stagione e questo chiaramente ha un impatto enorme sulla nostra industria. Ti immagini alberghi aperti più a lungo, giovani che possono lavorare più a lungo, stagioni che si allungano. Se riuscissimo a incrementare questa fascia, il viaggio di questa fascia, di questo segmento del mercato, sarebbe un grandissimo guadagno per tutti, per i viaggiatori, per l'industria. Abbiamo lanciato un bando a progetti che termina intorno a metà settembre, in cui vogliamo coinvolgere i privati e le autorità pubbliche anche per provare a scambiare. Cioè, fate venire turisti maltesi in Italia, vi mandiamo turisti italiani in Malta in base a stagione, oppure tra il sud dell'Europa, al nord dell'Europa, insomma trasversalmente in tutta Europa. Se è successo questo tipo di esperimento, l'idea del nostro commissario italiano, praticamente, che poi è innamorato del turismo, è quello di promuovere un vero e proprio meccanismo di coordinamento di tutto quello che esiste per far viaggiare i senior a qualunque livello e veramente lanciare questo mercato a grande. E poi l'altra grandissima tendenza, a parte chiaramente da far viaggiare più gli europei, che ha tutto il suo valore, è attirare più viaggiatori dagli altri paesi. Sì. Sono questi paesi con queste classi emergenti che hanno un potenziale enorme, i cinesi, mm-hmm, i russi, parlo di queste due, ma ce ne sono tanti altri, e sfruttare qualcosa di grandioso come sarà l'Expo 2015, perché lì allora ci potrà essere un boom se lo sfruttiamo bene. Certo, un volano per, come vetrina, e che potrebbe avere una eco molto molto lunga. Ricordiamo il sito ec.europa.eu per conoscere il lavoro della Direzione Generale Turismo Commissione Europea. Francesca, grazie davvero come sempre per la tua fotografia e buona vacanza a questo punto. Grazie, anche a te, allora aspetto. Ciao, buona estate, ciao ciao. Un post-it, la pubblicità, poi ancora qua con l'altra Europa. Europost-it. La capitale verde del futuro può essere la tua città? La vostra città investe sull'ambiente, su posti di lavoro, turismo e progetti legati al miglioramento delle condizioni ambientali? Allora potrebbe candidarsi a Capitale Verde Europea per l'anno 2016. Il premio assegnato a città all'avanguardia nel proporre modalità di vita urbana rispettose dell'ambiente. Le candidature saranno valutate in base ad alcuni parametri, tra cui i sistemi di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi, il trasporto locale, l'uso sostenibile del territorio nelle aree verdi urbane, la qualità dell'aria, la gestione dei rifiuti, delle risorse idriche. Il premio è aperto ai 27 Stati membri dell'Unione Europea, ai Paesi in via di adesione, ai Paesi candidati e quelli dello Spazio Economico Europeo. Per decidere chi vincerà, ci sarà un team di esperti da tutto il mondo e la scadenza per presentare le adesioni è il 17 ottobre 2013. Per candidarsi e saperne di più, europeangreencapital.eu. L'altra Europa. When I wake up, well I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I haver, yeah, I know I'm gonna be the man who's havering to you. Ancora buon sabato da Federico Taddia. Questa è sempre l'altra Europa. Europa, dati una mossa, l'Europa che si muove in questa estate. Oggi ci muoviamo, ci spostiamo per turismo con tante indicazioni per capire anche cosa c'è sotto al scegliere, il dove andare, il dove fare vacanza, cosa significa anche fare un turismo che sia diverso, un turismo che è anche sostenibile, un turismo che è sì relax, che è sì riposo, però magari anche portatore di nuove esperienze, nuovi incontri, nuove contaminazioni. Questa rimane la parola chiave. Con noi in studio Marco Pasqualini, si occupa delle relazioni internazionali per Marsiglia 2013, capitale della cultura. Non solo Marsiglia, ma anche Provenza, quindi non solo una città, ma un'intera regione, Marco. Un grande territorio di 2 milioni di abitanti. Più i fenicotteri, vorrei ricordare. Più i fenicotteri. Adesso non so se sono stati censiti, ma mi sembra. Non ancora. Può essere un'idea. E quindi veramente un grande pezzo di territorio che cammina e rema insieme verso una direzione. Credo che sia stato questo anche uno sforzo notevole. Esatto, l'idea era anche di partire da un progetto culturale per creare l'area metropolitana marsigliese, che è un progetto dello Stato che verrà realizzato l'anno prossimo. Si tratta di un territorio diviso politicamente da diversi anni, e il sindaco di Marsiglia e i politici locali hanno deciso di provare a lavorare insieme attraverso la Capitale Europea della Cultura. Per il momento ha funzionato. Prima, mentre insieme alla Tudini parlavamo un po' delle indicazioni date dalla Commissione Europea, ti vedevo annuire perché trovavi comunque dei link diretti tra quelli che sono delle linee di principio e quelle che sono applicazioni concrete di cose che avete realizzato a Marsiglia. Ci sono diversi link diretti con diverse cose di cui abbiamo parlato oggi, a partire dalla camminata. C'è un nuovo percorso GR 2013 che è un percorso di passeggiata in zone urbane che attraversa tutto il territorio di Marsiglia Provenza, quindi diversi comuni, a forma di infinito. E se lo seguite potete attraversare anche nuovi luoghi come il primo museo nazionale fuori da Parigi, il Musem sulle civiltà dell'Europa e del Mediterraneo, di cui abbiamo parlato e di cui avete parlato anche in trasmissioni precedenti, e la Villa Mediterranea ed altri luoghi di Marsiglia e di tutta la Provenza. Mm-hmm. Abbiamo parlato poi di turismo sociale e c'è un progetto che si chiama Hôtel du Nord che permette una cooperativa di abitanti dei quartieri nord di Marsiglia, che permette quindi di andare a dormire e vivere con delle famiglie dei quartieri nord in posti meravigliosi, tra l'altro. Quindi vi consiglio di prenotare Hôtel du Nord per le vostre vacanze a Marsiglia. Marco, portaci un po' nel programma, cosa accade nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi? Cosa accade nei prossimi giorni? Anzitutto le rivelazioni del Groupe F, uno spettacolo pirotecnico, quarto episodio a Port-Saint-Louis-du-Rhône, dall'8 al 10 agosto, quindi la sera, da non perdere. L'apertura di Argilla il 17 agosto a Aubagne, una serie di eventi dedicati all'argilla, alla terracotta e all'uso della ceramica, tipico del nord di Marsiglia. Tutta una programmazione dedicata alla danza con Houtan Danse dal 24 al 31 agosto su tutto il territorio, con un eco anche in Italia, perché l'ambasciata francese in Italia e l'Institut Français organizzano un festival che si chiama France Danse ad agosto-settembre, con una presenza di artisti marsigliesi, ad esempio il Ballet National de Marseille con Frédéric Flamand. Poi da non perdere il Grand Atelier du Midi, che è una grande mostra di tutti i pittori che hanno dipinto la Provenza, il mezzogiorno della Francia nei secoli. Un progetto territoriale, quindi tra Marsiglia, al Palais Longchamp, ad Aix-en-Provence, al Musée Granet, e a Aubagne, con una mostra su Picasso e la ceramica, sempre in questo comune di Aubagne. Insomma, il programma è davvero ricchissimo. Ricordiamo ancora una volta il sito, Marco, poi lo ripeteremo. Il sito mp2013.fr. Ok, lì si possono trovare tutte le informazioni, il programma e non solo. Adesso continuiamo a parlare di viaggiare, di fare turismo in Europa, e lo facciamo dal punto di vista dei diritti, di quelli che sono i diritti dei viaggiatori, perché l'Europa è attenta anche a questo, lo fa in maniera diffusa, e per raccogliere tutte le informazioni si possono utilizzare gli Europe Direct, che sono i centri sul territorio, sono i centri, ogni città ha uno sportello, sono luoghi in cui si può andare per fare semplici domande, per raccogliere informazioni, per capire quelli che sono appunto i diritti delle viaggiatore, perché sono tanti i problemi che si possono incontrare nel viaggiare in Europa, però appunto questi sportelli danno tutte le risposte. E per capire come e perché rivolgersi in un centro Europe Direct e quelli che sono veramente i diritti principali di noi viaggiatori, c'è con noi Alba Garavet del centro Europe Direct di Torino. Ciao Alba, ben ritrovata. Ciao Federico, buongiorno, grazie. Quindi è normale, può essere consuetudine, anzi è proprio da favorire, se uno sa che deve partire per un viaggio in Europa, prima può rivolgersi a voi per raccogliere le informazioni di base? Sì, sicuramente viaggiare in Europa è molto facile, noi sappiamo insomma che la libertà di circolazione ci permette di viaggiare abbastanza tranquillamente, ma forse bene conoscere alcuni diritti che ci possono essere riconosciuti quando viaggiamo, in particolare quando siamo in un altro paese, e tra questi sicuramente l'Unione Europea è attiva per tutelare in particolare i diritti dei viaggiatori, così come i diritti dei consumatori. Insomma, partire informati è sempre meglio, intanto per evitare sorprese. Ad esempio, quando si vola, se il volo è stato cancellato, se è in ritardo o se viene negato l'imbarco per overbooking, si ha diritto a compensazioni, a rimborsi, e anche nel caso che il bagaglio sia smarrito o danneggiato, si ha diritto a rimborso. Bisogna sapere, nel caso del bagaglio, soprattutto del bagaglio danneggiato, che si ha tempo solo una settimana per fare la richiesta del rimborso. Ci si rivolge agli uffici degli oggetti smarriti o all'ufficio della compagnia, c'è un modulo preposto che vale in tutto il territorio europeo e si chiede il rimborso. Mm-hmm. Poi ci sono sicuramente tra l'altro punti forse di maggiore interesse. Uno sicuramente è quello riguardante l'assistenza medica, l'assistenza sanitaria. Sì, sull'assistenza sanitaria ormai credo tutti conosciamo e abbiamo la tessera sanitaria. La nostra tessera sanitaria ci serve per avere diritto ai servizi sanitari pubblici anche negli altri paesi, in genere gratuiti. Alcuni paesi prevedono eventualmente un pagamento sui quali si può avere diritto a un rimborso o sul momento o sempre a seconda delle diverse normative quando si rientra rivolgendosi alla propria ASL. La tessera sanitaria è bene portarsela come documento, sebbene viaggiare nell'Unione Europea non ci richieda più nel passaggio alle frontiere i documenti, il consiglio comunque è sempre quello di portarsi un documento valido sia per sé che eventualmente anche per i propri figli. Anche i bambini che viaggiano devono essere muniti del proprio passaporto, della propria carta d'identità, anche per questioni di sicurezza. La tessera sanitaria è quella che ci garantisce l'accesso all'assistenza sanitaria anche negli altri paesi europei. Leggiamo anche un interessante capitolo per chi viaggia con animali o con piante, perché anche lì ci sono regole ben precise, però appunto c'è la possibilità e vengono date tutte le istruzioni del caso. Sì, per viaggiare con gli animali domestici, che includono cane, gatto e furetto, è necessario attrezzarsi per avere il passaporto europeo per gli animali. Dal proprio veterinario, che è informato, rivolgetevi da lui. In alcuni paesi, ad esempio nel Regno Unito, vengono richieste delle vaccinazioni aggiuntive e il veterinario su questo è sicuramente informato. È bene attivarsi soprattutto se si viaggia con animali molto piccoli, sotto i 3 mesi ci sono delle restrizioni, in particolare per cani e gatti, altrimenti è sufficiente il passaporto europeo per gli animali. Sulle piante è curioso perché, come in realtà si può ben pensare, insomma, si possono trasportare le piante da un paese all'altro, si può viaggiare con le piante da un paese all'altro, a meno che non ci siano delle restrizioni legali e normative. Certo. Faccio l'esempio, tutti se ne aspettano uno, io ne faccio un altro, della stella alpina. Non si può viaggiare con le stelle alpine perché sono in realtà piante protette, se le si raccolgono si incorre in sanzioni legali e normative. Mm-hmm. Insomma, questo è importante, avere la possibilità di chiarire, di sapere, di conoscere quelle che sono le regole. E le ultime due cose, Alba, una riguarda i cellulari, perché insomma è una nostra ormai appendice, il roaming è sempre stato fonte di costi altissimi, spesso non controllabili, e adesso invece le cose sono cambiate, giusto? Sì, bisogna dire che sicuramente la Commissione europea da questo punto di vista ha fatto una forte battaglia a tutela dei consumatori. Dal 1 luglio sono entrate in vigore le nuove tariffe di roaming con le quali l'Unione Europea ha obbligato ad abbassare tutti gli operatori ad abbassare le tariffe anche quando ci si appoggia ad operatori che non sono quelli sui quali si è fatto il contratto. Per darvi un riferimento, i messaggi dall'estero non possono costare più di 8 centesimi più IVA ad SMS. E ancora dal prossimo anno, dal 1 luglio 2014, si abbasseranno ulteriormente a 6 centesimi. Di nuovo, il dubbio può essere per chi ha smartphone e quindi ha questi contratti con il ricevimento dei dati, l'utilizzo dei dati a pagamento. In questo caso non ci si deve più spaventare se per caso la connessione si attiva, noi non ce ne rendiamo conto perché la tariffa massima per scaricare dati non può superare i 50 euro. Perfetto. Queste sono effettivamente delle grosse novità che tutelano soprattutto i consumatori. Da questo punto di vista la proposta della Commissione europea è quello di arrivare davvero a un mercato unico, per cui dovrà costare allo stesso modo telefonare, scaricare dati e ricevere messaggi in tutti i paesi europei. Così come ad esempio lo stesso costo è ritirare contanti agli sportelli bancomat. Certo, anche lì insomma ci sono dei regolamenti in modo che non si abbiano spiacevoli sorprese. Esatto. Europe.eu è un po' il sito di riferimento per conoscere tutti quelli che sono i diritti all'interno dell'Unione Europea, e c'è proprio la possibilità di conoscere i diritti nelle varie situazioni, quindi c'è una interfaccia molto agile. Sì. E per chi vuole c'è anche un'app da scaricare per i diritti del passeggero a portata di mano, che sono sia quelli aerei sui quali ci sono sicuramente molte tutele, ci ricordiamo nel passato appunto di aeroporti con tantissimi passeggeri arrabbiati per voli cancellati, questo non sarà più una grossa difficoltà perché le compagnie sanno che devono rispettare eventuali rimborsi, compensazioni, assistenza in aeroporto, così come l'assistenza alla mobilità ridotta. Pensiamo all'assistenza a mobilità ridotta nel caso ad esempio che ci succeda un incidente quando siamo in vacanza e ci dobbiamo muovere con la sedia a rotelle, con le stampelle, basta avvisare la compagnia aerea almeno 48 ore prima e abbiamo l'assistenza gratuita in aeroporto. Perfetto. Questi tutti i diritti garantiti appunto con questa app scaricabile dal server Europa. Benissimo. Le pagine del server Europa sono ec.europa.eu, oppure cercando sul motore di ricerca diritti dei passeggeri vi ritrovate subito sulla pagina Ottimo. In italiano sui vostri diritti di qualità e potete scaricare l'app sia per Android, Apple e BlackBerry. Un grazie ad Alba Garavet del centro Europe Direct di Torino. Ciao Alba, buona estate. Grazie anche a voi, ciao. L'altra Europa. È un giovanotti agli esordi, quello che ci accompagna verso il prossimo ospite, perché l'Europa da conoscere, da scoprire, anche quello splendido palcoscenico che diventa una sfida, diventa anche voglia di esplorare l'Europa con i mezzi più diversi. Abbiamo aperto la puntata camminando e la chiudiamo andando in moto con questo tour molto particolare, molto poetico anche. europemotorbiketour.com è il sito per conoscere il viaggio, l'impresa, la sfida che ha messo in moto, è il caso di dirlo, Adnan Maljalic, soprannominato Ado, così lo chiamano tutti, è nato in Bosnia e ha un sogno che è quello di appunto toccare in moto tutte le capitali europee. Ciao Adnan, benvenuto all'Altra Europa. Ciao Federico, grazie mille. Ciao. Il tuo sito ti segue quotidianamente con aggiornamenti su sul tuo viaggio. A che punto sei? Quante città hai già toccato? Le città ufficialmente sono 10 le capitali per adesso, però aggiungendo Oslo insomma siamo alla 11ª. Perfetto. Però il viaggio è diciamo quasi a metà. Perfetto. Come mai questa idea? Da dove nasce la voglia di visitare l'Europa in moto? Ma è stato un sogno insomma di un giorno che mi sono svegliato e ho detto ma devo fare qualcosa, devo vedere qualcosa perché insomma la ricerca delle altre culture, la voglia di sfuggire dalla monotonia ha fatto sì che mettessi in piedi insomma tutto questo progetto, cercassi sponsor che mi sostenessero. Perché purtroppo con le proprie capacità economiche non ci sarei riuscito e poi è diventata una cosa insomma veramente in grande. Ascolta, ma c'è tempo dalla moto di vederla questa Europa? Perché prima parlavamo del camminare, che comunque sono tempi più lenti, sembra che ci sia lo spazio per l'incontro, per l'osservazione, per la chiacchiera. In moto tutto allora, ciò succede? Sicuramente in moto durante il giorno è più complicato, nel senso che comunque si guida sia all'interno del proprio casco, all'interno del proprio mondo, quindi non c'è tanto spazio per interagire, insomma. Però la mia era una ricerca di un viaggio solitario, proprio di insomma, che mi permettesse di incontrare, perché quando sei da solo è molto più semplice incontrare le persone e quasi sempre capita insomma di sera magari negli ostelli oppure essendo sponsorizzato insomma tra le varie aziende anche da Triumph, qualsiasi concessionaria Triumph d'Europa diventa questa nicchia mia, quindi certo. Questo mi ha permesso di incontrare altri motociclisti in giro d'Europa. Ecco, e quale Europa hai visto, hai conosciuto, hai incontrato fino ad ora da questo particolare punto di osservazione che è il tuo casco? Guarda, le differenze sono tantissime, nel senso io sono di Cuneo, sono fatto sud Francia, nord Spagna, Portogallo, di nuovo Spagna, Francia, Irlanda, Inghilterra e poi adesso sono in Norvegia. Però le differenze sono tantissime, le differenze da un paese all'altro, cioè non sono le foto insomma che rendono la differenza, veramente incontrare la gente locale è quello che ti fa scoprire veramente le differenze dell'Europa, insomma, che se uno le vive da turista non le apprezza pieno. Quindi proprio la possibilità di toccare questa Europa dal di dentro. Quale sarà la tappa finale? Qual è il tuo obiettivo ultimo? Beh, come città finale sarà Roma. Giustamente. Si merita della conclusione del viaggio. C'è forse solo adesso un piccolo intoppo burocratico nel mio viaggio che è rappresentato dall'isola di Cipro, per la questione greca e turca, e questo cercherò di risolverlo all'ambasciata italiana ad Ankara, però mi sa che sarà difficile. Ho capito, quindi insomma... Perché non riesco a prendere il traghetto dalla Turchia ad andare nella parte nord dell'isola di Cipro e poi scendere a Nicosia, è illegale. Quindi potrebbe mancarti una bandierina alla fine del giro? Esatto, no, ma quella è l'unica difficoltà per adesso riscontrata, insomma. Alla scoperta delle capitali europee in moto, questo è il progetto, ricordiamo ancora il sito che è europemotorbiketour.com. Ado, buon viaggio, sei a metà del guado, quindi hai ancora metà Europa che ti aspetta, che sia un'estate ricca di incontri, ricca di curve, ricca di sterzate, ricca di frenate, perché ogni volta che si frena comunque c'è la possibilità di incontrare qualcuno. Buona estate! Europost-it. Prima di partire per le vacanze, fatevi TIM. TIM è la tessera europea di assicurazione malattia, una tessera gratuita che permette di usufruire dell'assistenza medica pubblica necessaria durante un soggiorno temporaneo in uno dei paesi membri dell'Unione Europea e in Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. Quando mostrate la TIM, riceverete le cure alle stesse condizioni e allo stesso prezzo, o gratuitamente in alcuni paesi, degli assistiti del paese in cui vi trovate. Potreste già averla nel vostro portafoglio perché è il retro della tessera sanitaria nazionale, TS, o della carta regionale dei servizi per le regioni Lombardia, Friuli, Venezia Giulia e Sicilia. Se non avete ancora ricevuto la tessera o l'avete smarrita, potete richiederla alla vostra ASL. Maggiori informazioni sulla pagina dedicata a TIM sul sito della Commissione Europea, ec.europa.eu/social, che rimanda a tutte le informazioni italiane. Qui potete anche scaricare la app per smartphone per sapere come e dove utilizzarla. Questi sono i nostri Europost-it e come sempre vi ricordo che potrete riascoltarli dal nostro sito radio24.it nella pagina dell'Altra Europa, dove la puntata è riascoltabile e scaricabile, però troverete anche tutti i link relativi agli argomenti che siamo andati a toccare sulle mie pagine Facebook e Twitter, oppure su quelle di Euronet Plus R24, Euronet Plus R24, sia su Twitter sia su Facebook. E chiudiamo questa puntata dedicata al turismo e ai diversi tipi di turismo tornando a Marsiglia. Con noi Marco Pasqualini, che si occupa delle relazioni internazionali per Marsiglia 2013. Marco, tra l'altro in Italia c'è questa gara in atto per il 2019, tantissimi dossier che stanno nascendo, tantissime candidature. Sarai sì. Gettonatissimo anche tu, lo sai, vero? Siamo gettonati, no, speriamo, vedremo. Però è vero che in questo momento ci sono una ventina di città candidate in Italia, se non mi sbaglio, e sempre se non mi sbaglio le città avranno tempo fino a settembre per inviare il primo rapporto per la richiesta del titolo di Capitale Europea della Cultura. Stiamo incontrando molti italiani in questo momento a Marsiglia che vengono, l'equipe delle città candidate che vengono a scoprire Marsiglia Provenza 2013, a chiederci anche informazioni, consigli su come fare per vincere. Cosa si stupiscono? Hai capito se c'è qualche aspetto di cui rimangono particolarmente spiazzati? Sì, la trasformazione della città. Hanno veramente visto una città nuova. Bisogna anche dire che Marsiglia e la Provenza hanno investito tantissimo in questo progetto. Se contiamo i soldi investiti in infrastrutture, i fondi sono di 600 milioni di euro, con 90 milioni di euro solo per la programmazione culturale. Quindi davvero enorme, una grande partecipazione poi del settore privato. Uh-huh. E Marco, ti chiedo di uscire un attimo dal tuo ruolo istituzionale, entriamo in quello un po' più personale, quindi meno testa, più pancia. Chi volesse arrivare a Marsiglia, sfruttando anche l'anno della cultura, quali sono proprio i consigli spassionati che daresti? Come arrivare, dove rivolgersi, dove trovare quello che magari è più nascosto, meno raccontato, o che comunque non si scopre dalle guide? Allora, anzitutto vi consiglio di scoprire il lato naturale del territorio, partendo dalle Calanche. Il Parco delle Calanche è diventato Parco Nazionale, è da scoprire, sono luoghi meravigliosi, non perdete poi le isole del Friuli, a largo di Marsiglia. E se volete poi scoprire invece il resto della Provenza, pensate al Pass Trasporti 2013, a meno che non veniate in moto come il nostro amico che sta facendo il giro dell'Europa. Mm-hmm. Quindi insomma, questa è sicuramente la chiave migliore per arrivare. Turismo anche assolutamente, immagino, a misura di famiglia. A misura di famiglia, turismo di tutti i tipi, anche turismo LGBT, con l'Europride 2013 che si è appena concluso, Marsiglia è diventata anche una destinazione gay e lesbica. Mm-hmm. Quindi insomma veramente per tutti. Grazie davvero a Marco Pasqualini, anche per te altri 4 mesi di lavoro, 4 mesi intensi o... Il più è stato fatto, però possiamo no, dire no, no, il più deve ancora venire da settembre fino a dicembre. Mm-hmm. Noi vogliamo esserci. Non si ferma mai la capitale. Questo è vero. Noi vogliamo esserci, quindi insomma ci terrai aggiornati, perché se c'è qualche evento particolare tenteremo, come sempre, di raccontarlo anche in diretta radiofonica. Quindi buon lavoro, ci ritroveremo sicuramente. Grazie mille. Un grazie a tutta la squadra dell'Altra Europa, un grazie a Margherita Aina che con me ha scritto la puntata, un grazie a Carmelo Lauricella, oggi alla parte tecnica. Europa, dati una mossa, quindi l'Europa che si muove, che si sposta per turismo, per studio, per lavoro e per volontariato continua. L'appuntamento ovviamente è a sabato prossimo. Ancora ciao da Federico Tardia. L'Altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.